Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. L'uomo di cui parliamo oggi è in carcere, sta scontando una condanna a 144 anni di prigione in isolamento totale, 23 ore di cella e un'ora d'aria. E per evitare sorprese, le autorità carcerarie gli cambiano cella ogni settimana. Bene, quest'uomo non è un serial killer, non ha mai torto un capello a nessuno, eppure per la legge americana è un criminale. Soprattutto i controlli a cui è sottoposti ci fanno capire che lui è un artista della evasione. Questa è la storia di Stephen J. Russell, uno dei più brillanti e audaci truffatori che gli Stati Uniti abbiano mai conosciuto. È seppellito da anni in carcere, almeno fino alla prossima evasione lo troveremo lì. Questa storia ci è stata segnalata da un ascoltatore, anzi, siccome si chiama Alfredo, diciamo che è colpa di Alfredo. Buongiorno Alfredo Cao. Buongiorno, buongiorno Enrico. Come hai scoperto la storia di Stephen J. Russell? Ma l'ho scoperta per puro caso, perché lavoro all'archivio film della Cineteca di Bologna e stavo controllando una coppia di cui non sapevo il titolo. Ho visto praticamente il primo rullo di questo film interpretato da Jim Carrey, che si intitola Il mago della truffa. Sì, esatto. E ho scoperto che dopo questo film era sostanzialmente una storia vera. Una storia vera, sì. La storia di Stephen J. Russell. Quindi sono andato un attimo a vedere e mi sembrava una storia perfetta per da segnalare. Molto affascinante, Alfredo. Io ti ringrazio, è stato un ottimo consiglio. Buona puntata. Un grazie abbraccio. Grazie mille. Ciao, buon lavoro. Le idee mi vengono dallo studio e dalla capacità di osservare. Mi guardo sempre intorno, cerco debolezze. Non credo di essere più intelligente della polizia, ma sono riuscito nelle mie fughe perché si pensa che un criminale sia per forza stupido. Chiunque può fuggire da qualsiasi luogo. Stephen J. Russell è il suo nome, ma nel corso della sua carriera di truffatore e di evaso, perché ormai è diventata una carriera anche quello, ha usato 14 nomi diversi con relativi documenti falsi per i suoi scopi. Ha impersonato chiunque, è stato un dottore, è stato un manager d'azienda, è stato un avvocato, è stato perfino un agente dell'FBI. Proprio i poliziotti federali, che alla fine il gioco a guardie e ladri con lui l'hanno vinto, e sono stati comunque le sue vittime preferite. Sì, perché ha sempre fatto fare alla polizia americana la figura degli stupidi. Forse anche per questo la sua condanna e il regime carcerario a cui è sottoposto sono durissimi. La sua carriera, la carriera criminale di Russell, arriva al grande pubblico grazie a un film molto bello che vi consiglio, un film del 2009. Il titolo italiano è Colpo di fulmine, il mago della truffa, con Jim Carrey nella parte proprio del protagonista. E proprio Jim Carrey ha sintetizzato perché la figura di Stephen Russell gli è risultata così interessante. I was polarized when I read the script. Quando lessi il copione ebbi una serie di sensazioni contrastanti. A pagina 1 odiavo questo tizio. A pagina 3 pensai che fosse piuttosto intelligente. A pagina 4 che fosse disgustoso. A pagina 5 che avesse avuto un'idea brillante. Sai, non riuscivo a staccarmi dalla lettura. What a brilliant idea. I couldn't let him go. Il titolo originale del film è I Love You Philip Morris, e ovviamente il tabacco non c'entra assolutamente nulla, e il motore di tutte le azioni di Stephen Russell è il suo amore per un altro uomo che si chiama Philip Morris. Stephen Russell nasce il 14 settembre del 1957 a Virginia Beach nel Massachusetts. La madre lo abbandona alla nascita e lui viene adottato da una coppia di ferventi religiosi. Il padre adottivo peraltro è un predicatore. Lui è un bambino intelligente, ha un quoziente intellettivo niente male, 163, però è anche irrequieto. A 9 anni finisce nei guai perché appicca un incendio nel garage di uno zio che non gli piace, e cresce in un ambiente religioso, frequenta la chiesa, ma insomma comincia a vivere una doppia vita. Si sposa la fidanzata di sempre, ha anche una figlia, ma nonostante questo lui ha chiare da sempre le sue vere inclinazioni. Oh, mi sono dimenticato di dire che sono gay? Sì signore, sono gay, gay, gay, gay, gay, gay. Lo sono da quando ho memoria. Ehi, guardate su! Io vedo un pony. Voi che vedete? Io vedo una motrice. Io vedo un elicottero. Io vedo un pisello. Cosa? Che tipo di pisello? È il pisello di un uomo. Ma sta zitto! Non è un pisello! No, non lo è! Oh, lo vedo! Eccolo! Negli anni 70 lui lavora in polizia, sceglie la carriera in divisa perché vuole trovare la sua madre naturale attraverso le banche dati del National Crime Information Center e la rintraccia e subisce un secondo rifiuto dopo quello dell'abbandono in fasce, e questo è un colpo fortissimo che convince Steven a abbandonare la finta vita che si è costruita, il paravento sociale in cui interpreta l'uomo casa e chiesa. Insomma, si dimette dalla polizia, lascia moglie e figlia e va a Houston in Texas e comincia a sfruttare la sua intelligenza, la sua abilità da truffatore per trovare un nuovo lavoro, con false referenze ovviamente, con un curriculum che lui inventa. Insomma, convince i vertici di una importante azienda alimentare a assumerlo come responsabile delle vendite. Poi però il capo scopre la sua omosessualità e in quell'America lì non si scherza e perde il lavoro. Bene, lui non batte ciglio e rimette in pratica le sue prime truffe, ancora false referenze, ancora curriculum finti, insomma passa da un lavoro all'altro. E poi il suo tenore di vita subisce un'impennata perché comincia a fare la bella vita, gli piace, spende molto denaro, lo stipendio non gli basta più, è pronto per un salto di qualità, diciamo a modo suo è un colpo d'ala perché sta per entrare a pieno titolo nel mondo dei truffatori di alto livello. Il falco e il gabbiano. Dopo una doppia vita condotta per anni, diviso tra una famiglia tradizionale e religiosa e la sua invece omosessualità, il nostro protagonista di oggi, che è il mago della truffa e dell'evasione Steven J. Russell, abbandona le finzioni, insomma decide di vivere a modo suo, lavora in aziende alimentari e si fa sempre assumere con falsi curriculum, con referenze che dà lui stesso, lavora sotto mentite spoglie e in qualche modo comincia a diventare il truffatore che poi farà molta strada. Steven Russell. Quando ho letto il suo curriculum, beh, non sapevo cosa pensare. Insomma, il suo livello di esperienza, la sua precedente istruzione avranno un gran peso sulla mia decisione. E beh, francamente, lei supera di una spanna gli altri. Voglio dire, non potevo crederci. Quando ho contattato le sue referenze, beh, solo parole di lode su di lei. Posso avere solo parole di lode su Steven Russell, signor Lindon? È uno che va dritto al sodo. Siamo stati fortunati ad averlo qui alla Prudential finché è rimasto. Impiegato dell'anno per 2 anni. Ha sviluppato software per l'IBM. Lei? Lei è il tipo di persona che ci serve qui, Steven. Però il lavoro e soprattutto lo stipendio non gli bastano, perché il suo nuovo stile di vita prevede il lusso, prevede lo shopping sfrenato, prevede bei vestiti, gioielli, automobili. Insomma, per potersi permettere tutto questo, lui ancora una volta usa la sua grande intelligenza, comincia a darsi alle truffe alle assicurazioni, finti incidenti nei supermercati per ottenere risarcimenti, ma anche truffe con carte di credito, con documenti falsi. Però non sono questi gli imbrogli che lo porteranno in galera. Lui viene arrestato per la prima volta perché in un parco di Houston, in un luogo noto per essere ritrovo di omosessuali, viene colto, diciamo così, in atteggiamenti, in comportamenti poco consoni al pudore, diciamo questo. Anche se nella vita di Steven Russell non è ancora entrato il grande amore del quale parleremo diffusamente, l'amore che lo spingerà a compiere le sue truffe e le sue evasioni, è già comunque il rapporto con un uomo a spingerlo verso il crimine. Russell ha un fidanzato, si chiama Jim Campbell, siamo agli inizi degli anni 90 e i due vivono una vita sfrenata, in viaggio tra Messico, Florida, insomma un'avventura on the road, Thelma e Louise del mondo gay. Russell finanzia questa avventura con delle truffe Però Jim Campbell si ammala di AIDS, i due sono costretti a fermarsi, chi si ferma è perduto, la polizia lo arresta e Steve finisce in carcere, una condanna lieve, ma lui vuole tornare da Jim, anche perché le sue condizioni si sono aggravate nel maggio del 93, quando gli restano solo 4 settimane da scontare, ruba un walkie-talkie dai secondini, ruba degli abiti civili e si avvia con aria sicura lungo i corridoi del carcere. La mia prima fuga funzionò perché usai quelle radio portatili della polizia per bussare sulla guardiola dei secondini. Le guardie pensarono fossi un ufficiale di polizia in incognito. Fu come una corsa adrenalinica. Quei primi momenti di libertà furono spettacolari. La cosa più bella era che sapevo di poter rivedere Jim e prendermi cura di lui. Jim visse altri 26 mesi dopo la mia fuga. E prima che le autorità si accorgano dell'evasione, lui è già scomparso e nei mesi successivi torna al capezzale di Jim. Quello che vede succedere attorno al suo compagno in ospedale lo porterà al passo successivo, al salto di qualità nella sua carriera di truffatore. Perché poi, quando Jim muore, lui matura questa scelta, la scelta di mettere nel mirino dei suoi imbrogli la North American Medical Management. Fecero passare l'inferno a me e a Jim quando era malato. Non vollero coprire il costo di alcuni trattamenti. In ospedale vidi dirigenti fare pressione sui medici affinché dimettessero i pazienti il più presto possibile, solo per non perdere i loro bonus. Questo fece crescere in me la voglia di vendicarmi e decisi di farli pagare per le loro azioni. E Russell si vendica a modo suo, con la sua solita tecnica, quella delle false credenziali, si fa proprio assumere dalla North American Medical Management e studia per qualche settimana i conti e le procedure della società, comincia sistematicamente a sottrarre fondi, centinaia di migliaia di dollari, fino a che la truffa non viene scoperta e lui cerca di scomparire. Questa volta però la polizia è più veloce di lui. Non mi toccate! No! No! C'ero ricascato. Avevo dei segreti. Vivevo una bugia. Calmati! Vaffanculo! Calmati! Calmati tu, coglione all'acquato! Buono, stai buono. Mi dispiace, non volevo essere sgarbato. Come ho detto, tendo a fare così. E per Russell si riaprono le porte dello stesso carcere da cui era evaso 2 anni prima. È proprio lì, però. Farà l'incontro più importante della sua vita e lo racconterà lui stesso in una delle sue rarissime interviste, perché in quel penitenziario c'è un ragazzo dei modi delicati, un po' indifeso, e ha questo strano nome, si chiama Philip Morris, come la famosa multinazionale del tabacco. Lui è dentro per un piccolo reato, il furto di un'auto a noleggio. I due si incontrano ed è subito amore a prima vista, il vero motore di tutta la storia. Da qui in avanti il motore di Stephen J. Russell sarà lui, Philip. La mia è una storia d'amore, riguarda ciò che una persona può fare quando è innamorata. E i mesi e gli anni successivi porteranno Steven verso altre truffe spettacolari, evasioni d'artista, anni in cui si prenderà gioco delle autorità, da quelle carcerarie all'FBI, insomma, metterà tutti in ridicolo. Il falco e il gabbiano. Oggi stiamo raccontando una storia strana nella quale il protagonista non riesce a esserci antipatico, anche se è un artista della truffa, un artista dell'evasione, è uno che non ha fatto mai del male a nessuno, che però sconta 144 anni di carcere in un regime di reclusione che forse è più adatto a un serial killer. Sì, perché il nostro protagonista, Stephen J. Russell, in realtà non paga tanto le truffe e le fughe, ma paga il fatto di avere irriso le autorità carcerarie del Texas, di essersi preso gioco per anni dell'FBI. Insomma, è una storia piena di colpi di genio che diventano dei colpi d'ala, quasi sempre motivati da un amore per un altro uomo, Philip Morris, che non c'entra nulla con le sigarette, ma è l'uomo al quale Stephen J. Russell ha dedicato la sua vita e la sua malsana arte di truffatore. e noi il nostro protagonista lo ritroviamo anche stavolta in carcere. Deve scontare una condanna per truffa e poi gli anni che si aggiungono per la prima evasione. Siamo nel 95 e in cella avviene l'incontro con Philip. I due si innamorano subito. Da quel momento in poi ogni azione di Russell sarà motivata dal poter stare con lui o dal poter tornare da lui. Nel 96 Steven riesce a impersonare al telefono un giudice della contea, stabilisce una riduzione di una pena pecuniaria a suo carico da 900.000 a $45.000. Salve, ho in linea il giudice Charles Hearn per la cancelleria. Bene, amore. Sono Charles Hearn. Ho una rettifica di cauzione in arrivo. La doveva essere sbrigata ieri, perciò potrebbe retrodatarla col pensiero? Detto fatto, giudice. Bene. Oh, tesoro. Mi risparmia un decino e mi collega al buon garante? Ottenuto lo sconto, lui paga la pena pecuniaria ed esce. La fuga dura 10 giorni, lo catturano in Florida, lo riportano in Texas e in quello stesso anno in carcere comincia a seguire lezioni d'arte, ma non è un improvviso bisogno di cultura, è un altro modo di scappare che lui sta per mettere in atto, perché ha notato che tutti i medici del penitenziario hanno un camice verde chiaro e lui per settimane ruba pennarelli dello stesso colore, tinge pantaloni e maglietta, svuota i pennarelli nell'acqua del water della cella, insomma si costruisce una divisa da medico e il resto è da copione. Indossa gli abiti, esce dalla cella, si avvia lungo i corridoi verso l'uscita. Sentiamo Terry Cobbs, l'investigatore che l'ha inseguito per quasi tutta la sua storia criminale. Quando attraversò questi cancelli per essere liberato, lui trasudava autorevolezza da ogni poro. Quella sicurezza che la gente percepiva e che lo faceva sembrare un dottore agli occhi delle guardie. Un meccanismo che funzionò e che funziona ancora oggi. Così lui, con aria professionale, con un sorriso smagliante in volto, esce dal carcere, è di nuovo libero. È l'inizio di una vera e propria caccia all'uomo. Da una parte c'è Russell con i suoi cambi di identità e dall'altra questo ispettore che abbiamo sentito anche un attimo fa, l'ispettore Cobbs. Lo cercano dappertutto, non possono immaginare che lui è rimasto in Texas, ha ripreso le vecchie abitudini. Eh sì, perché cerca tra gli annunci di lavoro, manda i soliti finti curriculum, risponde personalmente alle chiamate dei responsabili delle risorse umane che vogliono verificare le sue referenze. Insomma, è convincente, anche se i lavori che trova sono lontani dalle sue reali esperienze, dalle sue caratteristiche, però il suo segreto è studiare. Studia ogni cosa che gli serve con una grande energia, come un attore, interpreta la parte, riuscendo sempre a convincere tutti, e succede così anche nell'ultima società che truffa, un fondo che gestisce i soldi dei medici, perché lui ce l'ha un po' non solo con l'FBI ma con i medici, e gestisce questi soldi a Houston. Ed ecco il ricordo del terribile inseguitore, dell'investigatore Cobbs. Dissanguò la società di quasi $1,000,000 prima che scoprissero ciò che stava facendo. Un funzionario mi disse che fu uno dei più brillanti direttori finanziari che avessero mai avuto, a parte il fatto che li aveva derubati di parecchie migliaia di dollari. Ora, se riguardiamo le proiezioni di Mark per il Q3, vedremo che sono solo questo, proiezioni. Proiezioni basate sul modello stabilito dal mio predecessore. Ho deciso di rifiutare quel modello, di fare le cose un po' diversamente. Voglio mostrarvi i miei risultati. Questo è quello che abbiamo veramente ottenuto nel Q3. Ora voglio dirvi come ho fatto. Todd, mi porti un caffè? Qualcun altro vuole un caffè? Ma nel 1998 anche questa pantomima si interrompe, lo riacciuffano, torna in carcere, sempre nella contea di Harris, sempre nello stesso carcere. E questa volta il cumulo di pene comincia a essere corposo: 45 anni per la truffa al fondo dei medici più 20 per la fuga precedente. Nel frattempo il suo amore Philip è stato trasferito in un penitenziario vicino a Dallas. Lui dalla cella cercherà di farlo liberare con uno sconto di pena, non ci riuscirà, rimarrà il suo chiodo fisso, così come rimarrà il suo chiodo fisso l'idea di fuggire, e in quel periodo inizia a elaborare la sua fuga più incredibile, più audace, il colpo d'ala per eccellenza. Russell ha buone nozioni sull'AIDS, anche perché ha ucciso il suo compagno precedente. Comincia comunque a studiare la malattia, diventa un frequentatore fisso della biblioteca del penitenziario, legge ogni testo medico che descriva l'HIV, l'AIDS e i sintomi di chi è nella fase acuta della sindrome da immunodeficienza acquisita, e poi si mette all'opera. Per prima cosa ti devi affamare. Mangiai la metà ogni giorno per 10 mesi. Dopodiché, devi simulare ogni sorta di sintomi. Devi tenere duro finché non perdi una tonnellata di peso. La parte più difficile è falsificare le cartelle cliniche. Ma in prigione, con il malloppo giusto, puoi far modificare praticamente tutto. E il piano funziona con la complicità di qualche sorvegliante unto a dovere, corrotto. Si procura una macchina per scrivere, falsifica la sua scheda sanitaria, fa risultare di essere sieropositivo e poi il deperimento fisico convince i medici che lui sta morendo di AIDS. Lo trasferiscono in ospedale, resta per qualche settimana e da lì, con un telefono, fingendosi un medico, chiama la prigione e annuncia la propria morte. Steven Russell è morto di AIDS. Poi, eludendo la sorveglianza dell'ospedale, scappa per l'ennesima volta. È il 13 marzo del 1998. Ma il tallone d'Achille di questo genio della fuga è l'amore, il suo amore per il suo Philip, il suo desiderio di poterlo riabbracciare. Intanto, a una settimana dalla sua evasione, Steven entra nella Nation Bank di Dallas. Dice di essere un milionario della Virginia, con un documento falso cerca di ottenere un prestito di $75,000. Gli servono per fare rilasciare il suo amante Philip, e i funzionari della banca però questa volta non ci cascano, avvisano la polizia. Lui finge un attacco di cuore, viene portato in ospedale, piantonato con il suo cellulare, chiama il centralino dell'ospedale dove è ricoverato impersonando un agente dell'FBI, convince gli agenti di guardia a rilasciarlo. Questa volta però è diversa dalle altre, perché ormai lui è diventato un latitante di quelli da prendere a tutti i costi. L'FBI mette in campo mezzi, uomini, e lui viene arrestato per l'ultima volta il 5 aprile del 98 a Fort Lauderdale in Florida. È alla guida di un'auto, prova come sempre a fare resistenza, poi si arrende. Lui ormai è un caso, perché con le sue evasioni, con le sue truffe, ha messo in grave imbarazzo il sistema carcerario, la polizia dello Stato, l'FBI e perfino il governatore del Texas, che è un certo George W. Bush, il futuro presidente. Il giudice va giù pesante. 144 anni di carcere in un regime di massima sicurezza, 23 ore in cella, una sola ora d'aria, nessun contatto con gli altri detenuti né con chiunque lo vada a trovare, e ogni settimana viene spostato in una nuova cella. E il suo compagno e amante Philip esce dalla prigione nel 2006 e a volte lo va a trovare, i due continuano a scriversi. Vista la sua storia, molti si aspettano di leggere presto di una nuova fuga, di un nuovo colpo d'ala. E Russell però dice che ne ha abbastanza. Però dice anche questo in una rarissima intervista rilasciata attraverso il teleinterfono nella sala colloqui del carcere. Every system, every facility, it doesn't make... Ogni struttura non fa alcuna differenza, che sia carcere o istituto di custodia, ha le sue debolezze. Si tratta solo di fare molta attenzione, di guardarsi intorno e scoprirle. So have you spotted some in here? Ha già trovato i punti deboli qui dentro? Yes. Quindi potrebbe esserci un colpo d'ala finale, e vi devo dire la verità, io faccio un po' il tifo per lui, non per la polizia americana, l'FBI e il sistema carcerario, ve lo devo confessare. Tutti possono avere delle vite interessanti, e la vita di Steven J. Russell sicuramente è stata una vita molto interessante, molto movimentata. persone che sono riuscite, che hanno tentato, che hanno avuto cadute e risalite, e sono tante queste persone e noi le stiamo raccontando. Se avete qualche idea potete scrivermi, scrivere al falcoilgabbiano@radio24.it o sulla nostra pagina radio24.it, oppure sui miei Facebook, Twitter, sui nostri social, insomma, sapete dove trovarmi se volete. Ciao, a domani.